Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Dal libro di Massimo De Lorenzo, Tante care cose, letture di Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggeri, Cristina Pellegrino, Massimiliano Bruno, Giulia Mombelli e Alessandro Tiberi. È successo, insomma, che mentre ero in cucina a preparare la cena, lei è venuta da me, con quel suo visetto misto di felicità e paura, a dirmi che, ecco, insomma, lo avete fatto. Cioè che lei aveva deciso di dare il tuo nome alla sua prima volta. Non ti nascondo che mi è girata la testa, cioè mi sono dovuto proprio sedere, perché stavo per cadere a terra. Non lo dico come immagine figurata, stavo proprio per svenire. E ho dovuto respingere con fatica il fantasma di un mio lontano avo di Gioia Tauro che dava a lei della puttana e a te del pezzo di merda, io adesso ti rompo le ossa. Doveva succedere, evidente, mi sembra ieri, che le leggevo le storie di Ricci d'Oro e quindi mi fa un po' strano, ma so che doveva succedere. Intendiamoci, non penso minimamente di essere stato sostituito da te, rimango ancora io, l'uomo più importante della sua vita, brutto pezzo di merda. Vorrei piuttosto darti dei suggerimenti, perché vedi, tutte le donne del mondo e della storia sono molto più evolute e intelligenti di noi. Ho fatto mia la teoria per cui le donne sono il motore del mondo. Loro stimolano al cambiamento, al miglioramento dell'umanità. È così da sempre e finché il mondo sarà guidato dai maschi sarà sempre un posto di merda. Tu sei giovane, certe cose non le sai e allora mi permette di darti qualche consiglio. Non per la felicità di mia figlia, ma per la tua. Anzitutto ricordati sempre che lei è la cosa più preziosa che hai nella vita. Fatti un memo sul desktop, scrivilo davanti alla porta di casa, fatti un tatuaggio, pensa alla tua rotula, ma questa cosa non la devi dimenticare mai. Riempila di attenzione, di regali, di proposte, di idee, di intuizioni. Non cercare di sedurre me, che sono suo padre, non sforzarti di farmi capire che sei un apposto, non dobbiamo mica uscirci. Ti sembra uno da invitare a cena? Seduci lei, corteggiala tutti i giorni, ascoltala, falla sentire unica, falla ridere, falla divertire, ma sappi anche consigliargli le scelte giuste nei momenti più difficili. Aiutala quando sarà in difficoltà, lasciati andare a quelle cose che inizialmente percepirai come dubbi, paure, rotture di cazzo. Non abbandonare il campo per l'ennesima discussione, sempre la stessa inutile discussione, perché è proprio lì che devi giocare la tua storica partita e perché e pensare che sì, devo riconoscere che anche stavolta ha ragione lei. Ci sarà un momento poi in cui neanche lei saprà cosa vuole di più da te, ma vuole qualcosa, non sa cosa. E tu penserai che palle questa, vuole qualcosa e non sa cosa. Ci saranno momenti in cui la troverai insopportabile, resisti, ascoltala e capirai che per il tuo bene è meglio assecondarla. In sostanza, la tua serenità dipenderà dalla sua. E tu sarai il motore di quella macchina che però sarà lei a guidare. Devi insomma entrare nell'ottica che la tua vita, le tue scelte, le tue ambizioni saranno condizionate dalle sue. O meglio, non ci saranno più scelte o ambizioni tue, ma vostre, cioè sue. E sarai felice perché tu vuoi che lei sia felice. Sacrificherai tutta la tua vita per lei e per i figli che verranno, che saranno tanti, maschi e femmine, tutte col mio nome. Non avrai più tuoi amici, ma vostri amici. Non avrai più ricordi di te da solo, ma solo ricordi di voi due insieme. E sarà così per sempre. E poi un giorno, davanti al mare, che tu odi, ma che piace tanto a lei, ti verranno in mente i momenti della tua adolescenza, quando stavi da solo o con i tuoi amici, la felicità e la pienezza dell'essere ragazzi. E in quel momento, sulla tua sedia a rotelle, non escludere un profondo e dolorosissimo rimpianto. E quindi, caro, come ti chiami? Scusa, non riesco proprio a pronunciare il tuo nome. Io ti voglio dire che è meglio per te se la lasci adesso. Divertiti, gioca, viaggia, drogati, ma ti prego, lasciala, è ancora la mia piccola borsetta. Con sincera solidarietà. Leggerà Max, ed è un... mi sono immaginato me stesso che non è mai partito da Reggio Calabria ed è rimasto lì, e scrive un ipotetico amico che invece è partito, per descrivergli soprattutto il periodo del Natale che sta trascorrendo, che ha trascorso. E Reggio, questa lettera si chiama Caro Compare, perché è un modo di chiamarci tra di noi Reggini, diciamo Compare, come se cosa da passi Compare. Io Reggino non lo so fare, mi butto su una cosa simile, in friulano. Tanto Udine e Reggio Calabria hanno la stessa distanza da Roma. Ciao compare, il 24 mattina sono stato svegliato dalle grida di mia mamma, praticamente stavano friggendo le crispelle. Ti dico solo che erano le 10 di mattina, Enzo, una crispella è scoppiata nell'olio bollente e ha colpito mia zia. Vabbè, non si è fatto un cazzo per fortuna, ma poteva prendere l'occhio e ci rovinavamo il Santo Natale. Insomma, entro in cucina e minchia, ne stavano friggendo per un esercito. Vabbè che siamo in 20 tra nonni, zii, cugini, ma era una cosa esagerata. Insomma, faccio colazione con mezzo pandoro e me ne esco che puzzavo di fritto. Minchia, non hai idea che era la città. Col fatto che tutti friggono le crispelle e aprono le finestre delle cucine, sembrava di stare in guerra. O quando c'erano i fatti di Reggio, che la polizia buttava i lacrimogeni. Credimi, compare, pareva di stare nella pianura padana, ti giuro, non si vedeva un cazzo. Una puzza allucinante. E ogni tanto qualche ambulanza che secondo me a qualcuno l'olio bollente negli occhi gli è andato per davvero. Insomma, mi prendo un caffè con Demetrio, che pure lui puzzava di fritto ed era nervoso, e torno a casa per pranzo. Ora, come sai, il 24 a pranzo si sta leggeri, perché poi la sera c'è il cenone, e invece li trovi tutti seduti a fare uno spuntino, crispelle normali, crispelle con le alici, con l'uvetta che mi fa cacare, con la ricotta, col miele, con l'anduia, e poi il baccalà fritto e il pesce stocco a ghiotta che si deve fare per tradizione, ma poi tutti lo schifano. E il vino di mio nonno fa cacare, compare, è fortissimo. Infatti alle 3 eravamo tutti imbriachi, incazzati, tutti a protestare che le crispelle erano venute meglio l'anno scorso, poche alici, la ricotta era una fresca, una cosa brutta da mangiare, non era fresca e cose così. Poi ci siamo fatti un giro a 7:30, ma sempre mangiucchiando torroni, fichi secchi, noci e altre minchiate. E arriviamo al cenone che volevo solo vomitare. In più i parenti, tutti a rompermi i coglioni. Ma che stai facendo? Niente, mi sono iscritto a giurisprudenza a Messina. Ah, ma non volevi fare l'attore? Sì, vabbè, era una cosa così. Che facevo? Gliele recitavo a mia mamma, poi... Bravo, hai messo la testa a posto. Vedi che se vuoi c'ho un amico che ti fa entrare alla forestale. Ma poi, per fortuna, si mangia. Ora, la tradizione vuole che il 24 sera il cenone è a base di pesce. E siccome a casa mia non lo sanno fare, non è che ho mangiato tanto. A parte che mi devi spiegare perché gli spaghetti con il pesce devono essere per forza quelli piccoli, gli spaghettini, insomma. Ma datemi la pasta grossa, minchia! Gli spaghettini dateli ai malati! Metteteli come contorno, anzi buttateli proprio nel cesso gli spaghettini. Ti giuro, mi fanno troppo incazzare, vabbè. Poi c'erano gamberoni, involtini di pesce spada, totani ripieni, cozze gratinate, scampi, frittura e sta minchia di insalata russa, che pare che in Russia la chiamano insalata italiana. Perché siccome fa schifo, i russi dicono no, non scherziamo, sta cacata l'avete inventata voi. E noi, ma che cazzo dite, noi queste cose non le facciamo, che poi dice che ci sono le guerre. Insomma, il 24 sera è stata un po' una delusione, cioè non ho mangiato tanto. Il 25 mattina mi sono vestito a tipo matrimonio e sono uscito sul corso. Siamo andati al cordon con Enzo, Peppe, Demetrio e Nino, che minchia è sempre più depresso. Niente, è stato tutto il tempo a lamentarsi che a Reggio non succede un cazzo, che non c'è lavoro e che le femmine sono tutte puttane. E così sono andato da mia nonna, che il Natale per tradizione siamo tutti lì. Che ti devo dire, compare? Tu non hai idea di cosa mi sono mangiato. Pasta al forno e tagliatelle come primi. E poi salsicce e patate, capretto con le patate, cotolette e patate, parmigiana che fa mia zia che ci mette pure l'uovo sodo e le patate, roast beef e patate, pollo ripieno che mio zio ci ha fatto ammazzare e ce ne potevi mettere due patate nel pollo ripieno. Ah, c'era pure l'insalata che nessuno se la mangia mai, ma va fatta, se no qualcuno protesta che non è stata fatta. Compare, ti giuro, sembrava un suicidio di massa. Verso le 5 del pomeriggio c'erano tutti gli uomini buttati tipo pitoni in digestione sui divani e tutte le femmine che lavavano, non esagero, almeno 15 pentole e tutto il resto. Mi sembrava di morire, sudavo freddo, ma per fortuna mi sono addormentato. Tempo fa mi era capitato di leggere, di trovare delle lettere scritte veramente nel mio primo anno a Roma, 86-87, ai miei genitori, ed erano delle lettere molto sentimentali, melenze, molto infantili, diciamo, lettere di cui mi vergogno molto, perché erano, dicevo, anche delle bugie incredibili, delle cose terrificanti. E allora mi sono accorto che io in quell'anno lì non avrei mai potuto raccontare la verità di quello che stavo veramente vivendo in una casa che stava sulla Tiburtina, che era una sorta di caserma per me, è stato come fare il militare. E allora questa lettera ho immaginato di scriverla a loro per dire loro esattamente che cosa era successo. Cari mamma e papà, come avrei potuto raccontarvi dei fratelli De Giorgio? Due ragazzi di Foggia, belli, vuoti, iscritti a ingegneria, ma dediti esclusivamente, quotidianamente, con pazienza e passione, a ficcare tutte le ragazze che entravano nel loro raggio visivo. Avevano istituito con altri due loro amici una sorta di torneo, un campionato che iniziava a settembre e si concludeva a giugno. Le regole erano terribilmente semplici. Se baciavi una ragazza prendevi un punto, una notte di sesso completo 4 punti e poi in mezzo vari punti extra a seconda di che tipo di servizi riuscivano ad ottenere. Una cosa terrificante, lo so. Nel giro di qualche settimana avevano tutti tra i 20 e i 30 punti e ricordo che provarono anche a coinvolgermi nel loro assurdo torneo, ma per carità, io fui estremamente chiaro e deciso nel dire che non avevo nessuna intenzione di partecipare, anche perché sarei rimasto a zero. Ovviamente si basava tutto sulla fiducia, non credo che nessuno di loro assistesse alle performance degli altri e comunque non era necessario. Si capiva che erano fortissimi, in casa era un via vai di ragazze ignare di essere lì solo per chissà 1 o 4 punti. Per fortuna, dopo pochi mesi, i due fratelli De Giorgio convennero che il loro business si stava ampliando e meritavano una casa più grande che avesse almeno una sala d'attesa. Al loro posto arrivò Enzo Sannio, grande Enzo. Mi confidava i suoi problemi sentimentali, aveva molta fiducia in me. Era fidanzato con Sara, anche se lui la chiamava sempre Tortolina, una ragazza pallida, magrissima, timida al punto da non riuscire a guardarti mai negli occhi. Enzo la amava molto. Un giorno venne da me con un tono grave ed emozionato. Massimo, mi devi aiutare, domani è il compleanno di Tortolina e voglio scriverle una bella lettera per dirle quanto la amo. Che bello, Enzo. Bella idea. Sì, è una bella idea, vorrei scrivere. Grazie Trottolina per tutto quello che mi dai, il mio amore per te è immenso, infinito. Bene, è già un bel inizio. Non lo so Massimo, non lo so. Sì, io la amo all'infinito, ma come faccio a dirle che la amo molto di più? Penso, non lo so. Cosa vorresti dirle? Che la amo più dell'infinito, più delle stelle e dei pianeti e che il mio amore, che ne so, è come un cavallo randagio che galoppa in una prateria sconfinata, ma ancora di più, capito? Enzo, sì. Ecco, io non so se questa cosa del cavallo randagio... tu scrivile che non sai come definirlo, il tuo amore. Enzo, a questo punto mi ha guardato come se fossi scemo e perdonatemi se vi trascrivo la sua terrificante risposta. Massimo, non capisci? Io la amo così tanto che proprio non riesco a pisciarle in bocca, ma ti rendi conto? È terribile, Enzo. È scrivile questo? Io ora scusami, ma devo veramente andare. Era un periodo di merda, in senso letterale. L'appartamento in cui vivevo era in un palazzone di 12 piani, noi stavamo al secondo. Succede che si ottura la colonna fecale tra noi e il primo e il piano di sotto. Vengo svegliato dalle urla di Trottolina che era in bagno. Dal water, dalla vasca, dal bidet, da tutti i sanitari esce copiosa una acquetta marrone putrida. In pochi minuti tutta la casa è invasa dalla merda, in modo uniforme, 10 centimetri di merda. 11 piani di merda umana si riversano dentro casa. Vi ricordate quella bellissima moquette blu che c'era in camera mia? Era diventata grigia. E nonostante avessimo citofonato a tutti gli appartamenti sopra di noi, chiedendo per misericordia di non usare il water, non gliene fregava una minchia. Continuava ad uscire merda. L'orrore, cari mamma e papà, l'orrore. E il chiaro indizio che qualcosa nella mia vita doveva cambiare. Tocca a Carlo e se non sbaglio a Carlo Tonno. Questa lettera è una delle prime in realtà che ho scritto, è una lettera che, in cui ho usato questo pretesto di questo personaggio che si chiama il Tonno per parlare anche della, di come ci siamo conosciuti io e Luca. È una casa in cui abbiamo, che abbiamo condiviso, in cui c'era un terzo personaggio che era questo che chiamiamo Tonno, adesso capirete perché, e in realtà era appunto un pretesto per parlare di questa amicizia, ma anche per parlare no, ma di quanto i primi anni, non so per chi, soprattutto è venuto da fuori a Roma, e sono degli anni, stati degli anni pieni di speranze, pieni di sogni, degli anni meravigliosi in un certo senso, perché ancora non si aveva nulla, non avevamo ottenuto nulla, ma eravamo fiduciosi di poter conquistare il mondo, quindi insomma anni irripetibili. Ecco. Caro Tonno, prima di qualsiasi altra cosa vorrei scusarmi con te se io e Luca ti chiamavamo il Tonno. Era per via di quella tua richiesta, appena entrato in casa, di non pagare il gas perché non avresti mai usato la cucina. Ed effettivamente in un anno non l'hai mai aperto il gas, neanche per tentare il suicidio. Mai, neanche un caffè, una camomilla, nulla. Seguivi una dieta assai particolare, rigidissima, a base esclusiva di Chipster, Ringo, Fanta e appunto Tonno in scatola. Avremmo potuto chiamarti Ringo o Chipster, però sarebbe suonato un po' telefilm americano. Fanta era una buona alternativa, ma ormai è andata così. Il Tonno. Sì, ecco. Una delle cose che vorrei chiederti dopo tanti anni è proprio questa. Come facevi? Cioè, come faceva il tuo organismo a sopportare tutto questo? Con Luca ipotizzavamo che era questo tipo di alimentazione a generare una delle puzze di piedi più insopportabili che avessimo mai sentito nella nostra vita. Era una puzza elastica di piedi, di scarpe, marci, sia i piedi che le scarpe, che si spandeva dalla tua camera solo se la porta era anche un minimo aperta, come un blob nauseabondo, si spargeva pungente per tutta la casa, ma per fortuna bastava che ti chiudessi dietro la porta perché il blob sparisse senza più alcuna traccia. Potevamo addirittura risalire al grado di angolazione di apertura della tua porta dal grado di intensità della puzza. Volevamo proprio generare un algoritmo. Se la porta era spalancata, in casa c'era l'orrore. Il motivo fondamentale per cui ti scrivo questa lettera, caro Tonno, è che forse tu non sai che sei stato testimone di uno degli incontri più importanti della mia vita. Luca, appunto. Una delle amicizie più profonde e sincere, forse uno dei periodi più strani e lievi che abbia mai vissuto. Te la faccio breve. Conobbi Luca all'università. Un'amica comune, sapendo che entrambi cercavamo casa, ci presentò. Ricordo ancora quei suoi lunghi boccoli che cadevano sulle spalle e con addosso il giubbotto di Michael Jackson in Thriller. Era un ragazzo di provincia, eravamo due ragazzi di provincia, catapultati dal destino in una Roma in pieno edonismo e come entrambi il sogno di fare cinema. Solo che ci trovavamo all'università, dove di cinema se ne parlava soltanto usando termini accademici di cui non fregava niente a nessuno. Insomma, eravamo fuori dalla realtà. Iniziamo a cercare casa insieme. Ci battemmo quindi nel sopracitato appartamento di via Telesio e nel suo meraviglioso padrone di casa, Sirio Colella. Sirio era un bonaccione, fascista e misogino, che amava indossare pantaloncini corti, calzini corti e mocassini neri. E un alito che impediva qualsiasi contrattazione sul costo dell'affitto. La casa aveva tre stanze e ci impegnammo con lui a cercare subito un terzo inquilino. Dopo la visita di qualche disadattato che non esitammo a ignorare o cacciare via malamente, venne a vedere la casa una creatura meravigliosa, o almeno tale rimasta nei nostri sogni, Hélène, francese, conturbante, eccitante, antipatica. Era perfetta. Ma per nostra pace dello spirito, e non solo, Sirio non fu d'accordo. La sua motivazione fu criptica, ma empiricamente inconfutabile. Ma che siete matti? Una femmina, no, quella non è come noi, mica c'è il pisello. Fu talmente disorientante che non provammo neanche ad insistere. Aveva ragione lui, e il suo alito. E così, dopo altre ricerche, arrivasti tu. Da allora non sappiamo più che fine hai fatto. Io e Luca siamo diventati fratelli, abbiamo fatto tante cosette insieme. Insomma, volevo solo che tu sapessi che in quell'anno, in quella casa, in quella puzza, si sono costruite le nostre strade. E tutto sommato sono venute bene. Un saluto affettuoso. Esimio dottor Antoine Laurent de Lavoisier. Lei si chiederà chi è questo che mi scrive e cosa vuole da me. Uno stupore il suo più che legittimo. Anzitutto le voglio esprimere la mia più sincera solidarietà e il mio dispiacere per la sua testa ghigliottinata nel 1794 dal Tribunale Rivoluzionario francese con l'accusa di tradimento. Una condanna vergognosa, resa addirittura beffarda da quell'affermazione del presidente del Tribunale, Jean-Baptiste Coffinal, che disse: «La Repubblica non ha bisogno di dotti né di chimici. Il corso della giustizia non può essere sospeso». Ecco, voglio che lei sappia, in qualunque sostanza chimica si sia poi trasformato, che fu una condanna ignobile. Le scrivo inoltre perché ci tengo a metterla al corrente che il suo nome, celebre non tanto per le sue vicende giudiziarie, ma per essere uno dei più importanti personaggi della storia della scienza, è sempre stato molto familiare a casa mia, sin da bambino, e che il suo famoso postulato «nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma» è per me diventato un credo filosofico, un pensiero guida illuminante e rassicurante al tempo stesso. La dimestichezza col suo nome, dicevo, nella mia famiglia, è dovuta al fatto che se lei è considerato il padre della chimica, per me mio fratello, invece, la chimica è nostro padre. In senso figurato, ovviamente, non le sto certo comunicando di essere mio nonno. Le spiego. Mio padre aveva una vera passione per la chimica, ossessiva e totalizzante. Non si è mai laureato, ma l'ha sempre studiata, ogni giorno della sua vita. E se ne intendeva al punto da essere il professore di chimica di riferimento per molti ragazzi di Reggio che necessitavano di ripetizioni. C'erano due fratelli in particolare, gemelli, che si vestivano di nero e esalavano una puzza particolarissima a base di zolfo, ma c'era dell'altro, insopportabile al punto che in pieno inverno costringeva mio padre a fare lezione con le finestre aperte. Di questi due fratelli nessuno conosceva il nome, erano per tutti, anche per mio padre, le puzze. Mimmo, ma che sono venute le puzze? Ti prego, apri tutto, eh. Lo sai che oggi camminavo sul corso e ho sentito l'odore della morte. Poi mi sono girato e dietro di me c'erano le puzze. Ma venendo a lei, dottor Lavoisier, e al motivo di questa lettera, ho un ricordo preciso di me bambino che da dietro la porta dello studio sentivo la voce di mio padre che faceva lezione. Secondo la legge di Lavoisier, in una reazione la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti e quindi H2 più Cl2 diventa 2HCl. No, però Giovanni, se non hai capito me lo devi dire, non dirmi ho capito, non capisci sti niente. No, professore, ho capito, davvero. E va bene, voglio vedere. Io ovviamente non capivo nulla. Ma mi dava un senso di fierezza sentire mio padre così esperto di cose strane, anche in un certo senso filosofo. Nino, dimmi il postulato di Lavoisier. Sì, allora, praticamente niente si crea, niente si trasforma e si distrugge tutto. Sì, vabbè, una strage. Ma che cacchio stai dicendo? Ma le pensi le cose prima di dirle? Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Ma lo senti che concetto bellissimo che è? Sin da bambini, a me e mio fratello, era un continuo cercare di spiegarci qualsiasi fenomeno scientifico, qualsiasi reazione chimica. E in particolare quel suo postulato, dottor Lavoisier, mi piace estenderlo, non limitarlo solo alla chimica e alla fisica, ma applicarlo a tutte le trasformazioni della vita. È sempre stato consolatorio per me convincermi che in fondo non siamo stati creati, che noi a nostra volta ci si possa trasformare in qualcosa con la speranza che sia qualcosa di meglio e che si possa escludere l'idea di distruggerci, almeno non completamente. Non la disturbo oltre, esimio Antoine Laurent. Spero che la sostanza in cui lei si è trasformato sia un qualche gas nobile, che mio padre sia diventato ossigeno e che quel tal signor Coffinal, presidente del tribunale rivoluzionario, si sia trasformato in mefitico zolfo. Consonte. Questa qui è una lettera a un regista immaginario, in realtà è un insieme di registi e di situazioni in cui mi si sono trovato veramente. Questa è forse una delle poche lettere che vorrei... la quale vorrei avere una risposta, ma non l'avrò mai probabilmente. In particolare c'è un regista che anni fa mi fece questo complimento, secondo lui meraviglioso, che era quello che secondo lui avevo un tipo di pelle adatto alla pellicola Eastman Color, e l'avevo anche messo sul curriculum, ma poi è arrivato il digitale, però avevo voglia insomma di dirgli delle cose. E in generale, vabbè, per tutti noi attori, insomma, noi viviamo dei complimenti, però... ci sono alcuni registi che esagerano nei complimenti, o meglio, che fanno solo quello, cioè ti fanno i complimenti. Ma... lo dico, lo dico adesso. Lo dici tu questo, giusto? Hai ragione. E arriviamo a qualche anno fa. Mi chiama la mia agente, felicissima. Mi volevi fare un provino per un tuo nuovo film. Avevi chiesto se ero disposto ad ingrassare un po', diciamo una decina di chili. Non era un problema. Mangiare per me non è mai stato un problema. Figuriamoci se dovevo farlo per lavoro. Ero agitatissimo, mangiavo continuamente, non riuscivo a piegarmi per allacciarmi le scarpe per quanto ero grosso. E così arrivai al provino talmente confuso che mi sembrò di aver fatto un disastro. Ma invece andò bene. Ricordo che tu gridasti un sì, cioè lo urlasti proprio di gioia. Mi abbracciasti, eri commosso, io pure. Poi mi hai chiesto se ero libero da impegni, che il ruolo era mio e che, insomma, eri felice perché finalmente avremmo lavorato insieme. E ricordo anche che mi hai chiamato la sera stessa per assicurarti che sei stato libero e ancora a farmi complimenti imbarazzanti e grazie che sei ingrassato, stai benissimo. Poi è passata qualche settimana. Continuavo a mangiare e aspettavo e casualmente leggo che erano iniziate le riprese. E qui, non ti nego, mi sono cominciati a girare i coglioni. Per carità, è un tuo diritto fare come ti pare, ma figuriamoci. È ovvio che un regista si deve sentire libero di scegliere l'attore che gli sembra più adatto e giusto per il ruolo, oltre che bravo. Già siete costretti da produttori, distributori e piattaforme varie a scegliere uno o una tra quei 7 o 8 attori che ormai sono sempre loro, basta scambiarli velocemente, come il gioco delle 3 carte. Mescolare la trama, le carte, i capelli, la parrucca, il genere, la barba, ma alla fine i film si fanno con quei 7 attori lì. Insomma, Sergio, il fatto che tu allora non mi abbia scelto ci sta. Fa male, ma ci sta. È parte del nostro lavoro. Solo che sarebbe stato bello ricevere almeno una telefonata per dirmi che non avrei lavorato con te in quell'occasione. In nome di una nostra lontana amicizia, in nome dei complimenti di cui mi hai sempre riempito, in nome di quell'illusione che mi hai, grazie Pietro, creato, dicendomi che ero io, in nome delle carbonare e dei profiterol che mi hai fatto mangiare, in nome di Dio, tu avresti dovuto chiamarmi e con un finto dispiacere dirmi che avresti scelto un altro e non fare finta di niente, come se tutto il tempo e i soldi che ho dedicato al tuo cazzo de provino fossero dovuti e scontati. E così da allora ci siamo incrociati altre volte e tu sempre a dirmi che attore che sei, poi vedrai che prima o poi ho parlato di te con bell'occhio, ti ho visto al teatro, ma tu sei un genio, cose così. Vedi Sergio, noi attori ci nutriamo della stima degli altri e per quanto imbarazzanti i complimenti fanno sempre piacere, ma sono anche pericolosi, un po' come le caramelle drogate fuori dalle scuole. Eh sì, perché se ricevo ininterrotte attestazioni di stima per il mio lavoro, mi convinco che sono bravo davvero, ma se poi non lavoro, comincio a pensare che è il mondo che è ingiusto, ma io sono bravo e devo lavorare, allora continuo a provarci, ad insistere, ma senza concludere niente. E così ho perso un tempo preziosissimo, un tempo in cui, di fronte all'evidenza delle mie difficoltà e dei miei limiti, avrei potuto avere una lucida e definitiva accettazione di me stesso e dirmi serenamente: ma la sai una cosa, Massimino mio? Ma sai che forse a me di stare appresso a tutti questi non me ne frega più un cazzo? Vedi Sergio caro, io non metto in discussione la tua stima. So che è sincera e credimi, mi ha sempre fatto piacere. Ma ti chiedo d'ora in poi, basta, davvero. Non me ne fare più di sti cazzo di complimenti. Evita, lascia perdere. E magari in un'intervista in cui parlerai tronfio del tuo cinema spiega così, in modo generico, che significa avere un tipo di pelle adatto alla pellicola Eastman Color. Con tutta la cordialità che ti lascio immaginare. La penultima letterina c'è la leggera Cristina e questa è, vabbè, è puro, un puro gioco. In realtà è tutto nato dal fatto che ho pensato, ci abbiamo degli amici, un amico in particolare che magari capita che si risente, no, per delle cose, no, che, insomma, a cui bisogna chiedere scusa, ecco. Allora, tutti noi ci capita che a volte noi c'è qualcuno che ce l'ha con noi e non sappiamo perché, e poi scopriamo che c'era una minchiata che è successa e quindi quella persona ha portato del rancore nei nostri confronti, ma non ci è stata detta, quindi in qualche modo abbiamo dovuto saperla e poi quindi ci siamo dovuti scusare, e c'è sempre dell'ipocrisia. Poi anche quando c'è il bisogna in qualche modo perdonare quella persona, che non è successo niente, però dentro che non è successo niente c'è ancora tanto rancore. E quindi così, questa letterina caro amico. È un amico immaginario. Caro amico, scusa, ho passato giorni difficili e alla fine mi sono deciso a scriverti. Quello che è successo tra di noi è stato molto grave e credo sia giusto chiarirlo in nome della nostra solida amicizia. Anzitutto ti chiedo scusa, mi assumo tutta la responsabilità. Non ci sono giustificazioni per il mio comportamento. Potrei elencarti una serie di motivi per cui ho agito così, ma io credo che sia più onesto chiederti scusa e basta. Scusa, davvero. Vorrei però anche dirti che quanto è successo, che è sicuramente da biasimare, è stato totalmente privo di qualsiasi forma di cattiveria nei tuoi confronti. Non c'è mai stata nessuna volontà di ferirti. È stato tutto causato da pura e inqualificabile superficialità. Ti dico questo perché insieme alle mie scuse ti arrivi chiaro, non in mia difesa, il contesto in cui posso essere stato, per superficialità, ripeto, offensivo nei tuoi confronti. Purtroppo, e non lo dico a mia giustificazione, ho dei ricordi piuttosto vaghi di quanto posso aver detto. In realtà non sono nemmeno sicuro che sia mai stato fatto il tuo nome, però io credo che poco importi, poiché qualsiasi cosa gli abbia detto ti ha ferito. E ti chiedo scusa. Da quanto mi dicono i nostri comuni amici, ci sei rimasto male, ti sei offeso e aspetti le mie scuse. Eccole. Voglio però aggiungere, se posso permettermi, che avrei preferito fossi stato tu a parlarmi del tuo risentimento, dirmi che ci sei rimasto male, che vuoi le mie scuse e magari spiegarmi nei dettagli, tra le cose che ho detto, cosa può averti ferito. Mi rendo conto di essere una persona distratta e forse anche superficiale. Però davvero, amico, io non ho capito perché ce l'hai con me. Cioè, non riesco nemmeno a immaginarlo. E mi rendo conto che questa mia inconsapevolezza aggrava la mia posizione. Però io, ecco, devo proprio confessarti che anche io ci sono rimasto male. Perché se hai qualcosa da dire a un amico, glielo vai a dire a lui, non ad altri. Perdonami, però è una cosa brutta quella che hai fatto. Una cosa che mi ha creato dolore e risentimento nei tuoi confronti. Ho passato giornate tristi e notti insonni, ho cercato in tutti i modi di capire come sia possibile che un amico, caro, come tu sei, non sia venuto a parlarmi subito, che abbia preferito parlare con altri di me, di un suo risentimento, di quanta ipocrisia ci possa essere nonostante l'affetto e di quanto inoltre tu mi abbia esposto al giudizio di altri, danneggiandomi. E quindi ti scrivo per dirti che sarebbe bello se mi porgessi le tue scuse. Ne aspetto, me le devi. Mi rendo conto che adesso ci troviamo in uno strano dilemma. Chi si deve scusare per primo? La sensazione è che dovresti scusarti prima tu. E poi, di conseguenza, lo farai. Insomma, vediamoci e capiamo come fare. Un abbraccio mortale. Luca voleva fare l'attore, pensava che il suo sogno fare l'attore. Voleva fare, sì. Quindi adesso c'è una letterina che vedete qui, pezzettino. Vabbè, questo è un giochetto, in realtà è un giochetto nato con Carlo anni fa. Volevamo girare un cortometraggio che si intitolava L'amante suona il violino, perché abbiamo insieme, avevamo maturato questo odio nei confronti della Francia e dei francesi. Un odio ovviamente che mi stima, per carità, nessuno lo mette in discussione, però di fatto un odio calcistico. Una volta eravamo lui, non ti eravate tu, Giacomo, ad Amsterdam, Mattia, un gruppo di noi era andato a vedere proprio la finale degli europei del 2000. Ecco, mentre io invece a casa di Andrea Sartoretti mi ricordo questo ragazzo francese che urlò nelle mie orecchie il gol di Wiltor, e quindi lì poi è esploso l'odio nei confronti dei francesi, ma in generale per questa loro... E questo cortometraggio che volevamo fare era un insieme di tutti i luoghi comuni del cinema francese, ma della cultura parigina, con tutto l'amore del mondo ovviamente, però ricca di luoghi comuni, e quindi era giusto che scrivessi una lettera ai cugini francesi. Con tutte le premesse, no, ne manco il francese, so, quindi tutto va male. Carissimi cugini francesi, vabbè, non è che proprio vi odio, intendiamoci. In fondo io non odio nessuno, diciamo che mi state sul cazzo. Non c'è un evento scatenante, almeno non che io ricordi. Fino a 15 anni voi eravate solo pagina 27 del libro di geografia. Poi, la prima volta a Parigi, e devo ammetterlo, Parigi è bellissima, ci sono tornato varie volte e niente, è sempre bellissima. Una città dove è bello camminare di notte, fermarsi in quei baretti o bistrò, o come li chiamate voi, insomma, quelli con i tavolini tondi e le sedie tutte attaccate che ti sembra naturale servirti dalle consumazioni degli altri e fumare le loro sigarette. E poi la cultura, l'arte, i grandi pittori e scultori dell'arte contemporanea, i poeti maledetti, i grandi cineasti della Nouvelle Vague. Me li vedo tutti che passeggiano per i boulevard discettando con i loro maglioni a collo alto e una lunga baguette sotto il braccio, tutti con ste baguette di quasi un metro che poi pretendono di sedersi a quei tavolini attaccati, intruppandosi a vicenda con le baguette, e poi tutto un pardon. E noi a Roma invece di pardon diremmo più drasticamente: adesso però mi hai rotto il cazzo, ficcatela nel culo sta ciriola allungata. E i più maledetti di tutti in quei bistrò sono quelli che stanno seduti da soli con un pacchetto di sigarette, una bevanda che chiamate caffè e un nuovo libro da leggere. Perché è vero, voi leggete di tutto, molto più di noi, e quindi io vi immagino tutti così, che vi dite delle cose profonde, o vi scambiate libri e opere d'arte, poi andate alle mostre, ai vernissage, minchia quanto vi piacciono i vernissage, a cercare ispirazioni, intuizioni, seduzioni esistenzialiste, oppure al culmine della vostra ispirazione artistica e alcolica, andate in quelle vostre case all'ultimo piano, sui tetti, perché a Parigi le case sono solo sui tetti, niente piani intermedi, E in quelle case, dicevo, vi mettete subito a scrivere qualche poesia bevendo assenzio, a dipingere o a fare l'amore in modo intenso, violento, in due, tre, quattro, o quanti siete, per poi rimanere ore nudi sul letto a sussurrarvi la vostra nuova idea sulla morte, oppure vi mettete sempre nudi a suonare il violoncello. Mentre noi, i nostri seminterrati, dopo che abbiamo fatto l'amore, di solito ci rivestiamo in fretta e riprendiamo a fare le nostre cose come se non fosse successo nulla, come se ci dovessimo nascondere da Dio. Dal libro di Massimo De Lorenzo, Tante care cose, letture di Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggeri, Cristina Pellegrino, Massimiliano Bruno, Giulia Mombelli e Alessandro Tiberi. Con Massimo De Lorenzo, autore del libro Tante care cose. Ben trovato! Ciao, ciao a tutti! Cos'è questo lavoro? È un librino... Siamo librino perché non mi sento ancora uno scrittore, forse non mi sentirò mai, faccio l'attore e sono stato coinvolto da Santiago Maradei, che è l'editore di Biblioteca e Edizioni, che mi ha lanciato questa suggestione, inizialmente ero un po' restio, poi ho trovato questa idea di scrivere delle lettere a vari destinatari, così immaginari, reali, del passato, del futuro, e da lì quindi un po' così. Un gioco per raccontare delle storie molto personali, devo dire, forse troppo personali, mi rendo conto forse deve anche vergognarmi. Sei attore, ma pratichi anche la scrittura? L'ho fatto collaborando così a livello di brainstorming per delle sceneggiature, più che altro con gli amici di Boris, con Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre, il suo tempo. Però diciamo che è la prima volta che scrivo un libro, ecco, devo dire che sono molto felice, più che altro per me, perché un modo per esprimersi meraviglioso che consiglio a tutti, anche solo per se stessi. Come hai scelto i tuoi ipotetici interlocutori? Tutto è partito da una lettera che c'è all'interno del libro a una dirigente scolastica, perché era una lettera reale che avevo scritto per sfogare tanta frustrazione e rabbia per la scuola di mia figlia, un liceo del centro di Roma. Lettera che non ha avuto poi nessun effetto pratico, non mi ha neanche risposto, però chi l'ha letta mi ha suggerito di continuare a scrivere. E da lì quindi la scelta è stata per molti dei personaggi, dei destinatari, legata a aneddoti, eventi che secondo me meritavano di essere condivisi, più che altro perché magari più possibile oggettivi, ecco, non troppo personali. E poi da lì anche il desiderio proprio di sfogare delle altre rabbie, altre frustrazioni personali, però ovviamente cercando il più possibile di usare un linguaggio ironico, leggero, in cui gli altri possano in qualche modo riconoscersi. Il processo di scrittura quanto ti ha richiesto? Una volta individuato il destinatario è stato molto semplice buttare giù delle lettere che poi andavano un po' ricorrette sicuramente, però mi vergogno un po' a dirlo perché ci ho messo 4-5 mesi, per me le scrive, immagino sempre che abbia bisogno addirittura di anni per migliorare il proprio lavoro, quindi forse non dovrei dirlo che è stato così breve. Subito dopo che le hai scritte, le hai fatte leggere alla tua cerchia di amicizie e di affetti, no? Sì. Sì, la prima lettrice è stata la mia compagna, Giulia Mombelli, che è stata molto severa e invece positiva quando sentiva di esserlo, quindi non era di parte. E poi a seguire Luca Vendruscolo, che mi ha dato una grossa mano invece per lei, per le lettere, e anche Giacomo Ciarrapico, diciamo, sono stati i principali sostenitori. Dopo le prime lettere che ho scritto mi hanno detto vai avanti, ecco, non mi hanno detto lascia stare che mi hai scritto. E poi quando è uscito sta piacendo, insomma le persone che lo leggono, anche sconosciuti, rimangono sorpresi, forse dovrei offenderli, tutti hanno un tono da dire ma sai che non pensavo, ma è incredibile, non avrei mai detto. Dai, lo capisco, perché comunque ripeto, per uno che per la prima volta si cimenta con un libro è strano sicuramente. C'è l'influenza dei tuoi riferimenti letterari? Sì, è inevitabile. In primis immagino ci sia l'influenza di Mattia Torre, ma perché forse una delle cose più dolorose era il desiderio continuamente di fargli leggere qualcosa, di avere una sua idea, una sua opinione. E poi inevitabile quella di Mattia, perché comunque diciamo abbiamo coltivato uno spirito, un'ironia comune, quindi probabilmente si possono percepire delle cose che vengono da lì. E dei classici, io sono un amante di Carver e un amante di Borges, però non me la sento di dire che me la dia troppo. Sicuramente nella brevità dei racconti, ecco, rispetto all'idea di un romanzo, quello sì. Dicevo prima della tua cerchia di amicizie, di affetti, quanto ha contribuito questo crescere insieme, lavorare insieme alla formazione di una intelligenza e di un'ironia? Parecchio. Diciamo che noi siamo un gruppo principalmente di amici di vecchissima data. Con Giacomo Ciarapico abbiamo fatto il centro sperimentale insieme e Giacomo a sua volta, ancora prima, erano compagni dalle medie, dalle elementari, con Mattia, con Andrea Santoretti, con tanti altri, insomma, Pietro Salmonti. E quindi siamo principalmente amici, inevitabilmente poi, essendo degli amici che hanno degli interessi comuni, è successo che abbiamo cominciato a lavorare insieme, a fare dei progetti insieme, dal teatro negli anni 90 fino poi ad arrivare a Boris e anche altre cose dopo. Frequentandoci ossessivamente un tempo tutti i giorni, adesso che siamo più anziani forse un po' meno che tutti i giorni, però comunque vacanze insieme, capodanno insieme, cene, pranzi, insomma qualsiasi cosa, e alla fine è inevitabile che si crei un linguaggio comune proprio, e questo linguaggio comune poi lo si ritrova nelle cose che Giacomo, Luca, Mattia hanno scritto, ma che ci appartiene prima ancora come amici che come professionisti, ecco. La scelta di questo titolo, che richiama fortemente una retorica comune? Era un'idea suggerita da questo nostro amico Andrea Quattropani, lo voglio citare perché è merito suo. Inizialmente io lo volevo intitolare Cordiali Saluti, che è la cosa più banale del mondo, perché sono delle mail, delle lettere, e a me però diverte molto questa cosa, molto ipocrita, che molte lettere si usi così. Si usa questo termine, cordialità, cordiali saluti, con i più cordiali saluti, che è una delle cose più ipocrite del mondo, soprattutto quando poi le lettere sono assolutamente aggressive, minatorie, minacciose, però poi si finiscono e comunque colgono l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti. Quindi questa cordialità è una delle cose più finte che esistano, soprattutto nelle lettere. Cioè ti manda a quel paese, però comunque rimango una persona gentile, questo poi sarebbe sé. Allora mi divertiamo a ironizzare su questo, e questo tante care cose, in realtà è un po' vorrei che arrivasse a questo esempio. Punto di cordialità, e poi letteralmente sono tante, sono care, sono delle cose, cioè sono degli eventi, dei racconti, insomma, rispecchia abbastanza quello che è il contenuto del libro. Ecco, proprio a questo proposito ci hai messo dentro vari stati d'animo. Sì, dalla rabbia, dalla frustrazione, dal sarcasmo, fino ad arrivare poi a passaggi che sono un po' più sentimentali, che sono quelli che un po' più però poi mato, perché poi alla fine mi rendo conto che vince molto il cinismo ironico, il sarcasmo, per cui gli aspetti più sentimentali in qualche modo li ho dovuti un po' nascondere, però vengono fuori inevitabilmente, soprattutto dove è necessario. Penso a una lettera a Goliarda Sapienza, che è stata la mia maestra di vita, oltre che di recitazione, a certi passaggi in cui faccio riferimento comunque ai miei genitori, oppure a me stesso, bambino ingenuo in qualche modo. Quindi sì, probabilmente è vero, ci sono vari stati d'animo all'interno di questo librino. Lo stai portando in giro compatibilmente con la tua attività in scena, ed è anche occasione per farlo leggere dal vivo dai tuoi colleghi e colleghe. Sì, essendo un attore è inevitabile che probabilmente c'è una scrittura, uno stile di scrittura molto recitabile, mi viene da dire, e devo dire che è divertente sentirlo leggere da attori professionisti di un certo livello come Paolo Calabresi o Pietro Sermonti e tanti altri, sono li nomino tutti, che mi hanno accompagnato in queste presentazioni, e sentire cosa ci mettono di loro. Capisco come si sente un autore, la gioia che prova un autore nel vedere come un attore poi aggiunga delle cose, e il risultato poi col pubblico è sempre molto, molto piacevole, molto divertente, perché c'è il nesto dell'attore che ci aggiunge il suo sicuramente. Il libro Tante care cose, un saluto e un ringraziamento all'autore Massimo De Lorenzo. A presto! Grazie a voi, grazie, grazie. Lo spettacolo La Bastarda, una vita coraggiosa, di Rosario Mastrota, con Dalila Cozzolino, Andrea Cappadona, Antonio Monsellato, Rosario Mastrota. Consulenza Paolo De Chiara. Testo e regia Rosario Mastrota. In collaborazione con Arci da Sud. Introduzione Federico Raponi. Personaggi. Lea, una donna coraggiosa. Carlo, un 'ndranghetista. Smith, un 'ndranghetista, fratello di Carlo. Floriano, un 'ndranghetista, fratello di Lea. Due detenuti. Un'altra donna. I fatti rappresentati in questo testo si basano sulle dichiarazioni rilasciate da Lea Garofalo ai magistrati, sulle interviste alla figlia Denise, alla sorella di Lea Marisa, ai familiari, e sulle dichiarazioni rilasciate da Carlo Cosco al processo. In scena gli attori useranno un linguaggio che fonde italiano e dialetto calabrese. L'amore talvolta può trasformarsi in una trappola infernale, in qualcosa di incontrollabile che trascende la realtà. Lea Garofalo è una giovane donna, vittima di un amore malsano. Il suo cuore sedotto decide di amare Carlo Cosco, un 'ndranghetista. Il risultato di questa unione è Denise, una figlia. Ben presto l'amore si appanna e Lea inciampa nella realtà. Come una leonessa che protegge il suo cucciolo, Lea rinuncia alla sottomissione e al silenzio, deflagrando la verità, sconfessando segreti impronunciabili. Si autocondanna al peccato numero uno dell'organizzazione criminale calabrese, il tradimento. Diventa la bastarda, diventa carne morta, diventa una vittima della libertà. I suoi carnefici l'hanno chiamata bastarda per svilirne il nome. Bastardo invece vuol dire ibrido fra due razze, e tra l'una e l'altra Lea ne ha scelto una terza che l'ha resa unica. La scena è buia. Un riverbero di luce mostra tre grandi pannelli sul fondo. Ogni pannello ha un oblò. I pannelli ricordano delle grosse lavatrici bianche. Sulla destra, seduto su una giostrina grigia che ricorda un enorme cestello della lavatrice, appare la sagoma in controluce di un uomo. Si sente il suo masticare. Nell'oblò centrale, una lampadina si accende illuminando un altro uomo, intento a segare una gamba con una grossa sega arancione. In proscenio, seduta su una sedia, c'è una donna, Lea. La luce illumina più visibilmente l'uomo sulla giostrina. Sta addentando un grosso panino. Resta in silenzio. Si amplifica solo il rumore della masticazione. Il panino viene divorato avidamente. Dietro l'oblò centrale, l'altro uomo continua a segare. Si alternano la masticazione e il rumore di sega fino a fondersi, disgustosamente, su una musica che sale e poi sfuma. Ma che è sta puzza? Madonna! Neanche un panino in pace mi posso mangiare. Ma queste sono decisioni importanti. Se non le prende il capo, non le prende nessuno. Il capo. Uno è per questo che diventa capo, no? Appena sarò io il capo, passerò le mie giornate alle slot. Ucciderò gli infami. E sarò io a dire ai miei a chi sparare quando non mi andrà di farlo. Che? Mi faccio schifo? Ma io sono uno che prende decisioni e le devo prendere pure alla svelta, se no mi cangiano. E pu capo un ci divento. Tanto alla puzza di morte ti ci abitui, lo vedi? Riesci perfino a mangiare mentre l'infame viene fatta a pezzettini. Questa è la vita mia. Io resto vivo e mangio. Mentre Guido da, poveraccio, un sa passa tanto buona. Madonna però che puzza, oh. Oi Smith, ma ha finito? No. Ma una birra c'è? Tieni. Ah, bella fresca. Alla salute della buon'anima, Smith. Prosit. Ah, Smith, stasera esco con una femmina. E come? È una. Una che ci può aiutare tanto. Sì. Che cazzo c'entro io? Oi Smith, ma tu vuoi fare carriera o vuoi continuare a segare le gambe degli infami per tutta la vita, eh? Carla, ma che cazzo stai dicendo? Ma di che parli? La sorella di Floriano. I Pagliarelle. Ma te sei inciototo? Può darsi. E forse non mi vedi per qualche giorno. E che fai, la rapisci? No, a conquisto, Smith. Secondo me è un'idea di merda. Floriano ti fa sparare. E da chi mi fa sparare? Da te? Ma io spero che t'ammazza veramente sto Floriano. Ah, Smith, a proposito, com'è che si dice? Ah, all'amore non si comanda. E lavora, forza, lavora. Ti siedi sempre qui a quest'ora. Ti vedo dalla finestra. Tutto a posto? Sì, tranquilla, mi piace il tramonto, tutto qui. Ma è pieno di zanzare. Ah, il mio sangue non gli piace, tranquillo. Beata a te. Del mio ne vanno matte, guarda qua. Oh, ma che danno punto. Guarda. Oile, ma teniamo lo stesso sangue. Piuttosto, tu che ci fai qua fuori? Ufficialmente sono uscita per parlare con te. Facciamoci una canna, va. Ah. Marisa lo sa? Marisa sa sempre tutto. Tieni, fuma. Passa. L'ha caricata sta canna, Ele. Brava Lea. Fifi, tu che volevi fare da grande? Oh, perché mo ti sembro vecchio io. Dai, Fifi, rispondi. Il benzinaio. Lo sapevo. Volevo solo sapere se te lo ricordavi ancora, il benzinaio. Lo dicevi sempre da piccolo. Ma come ti è venuto in mente? Dove lo pigliasti? Dove l'ho preso? Te lo ricordi tu a Ninuzzo della Total? Lo vedevo sempre ogni volta che dava il resto di soldi con quel malloppo tra le mani. Pensavo, ce li fai i soldi col benzinaio, eh? Per questo l'ho scelto. Però a ripensarci poi, guarda, vedi cosa sono diventato. Pure oggi posso dare i testi proprio come fa il benzinaio. Guarda a Calè, guarda. E dai, Fifi, scherzavo, mettili via. Dai, piglia sti soldi e non dire niente a mamma. Fifi, ma sono tanti. Un sunnentile. Posso essere la sorella del benzinaio ricco? Oi scema, mica fumare ti fa male. A proposito, tu? Io cosa? Tu, che vuoi fare da grande? Non lo so. Ah, tutti lo sanno, pensaci. Non lo so, Fifi, davvero, non ci penso mai a me. Guarda che sognare non costa niente, dai. Il tuo segreto resterà qui, tra di noi. Un giù dirà mamma, però, eh. Ah, parola d'onore. La scrittrice. Vorrei scrivere un romanzo così famoso da restare per sempre nella letteratura, per essere ricordata per sempre. Oh, lei, gli scrittori sono tutte maschi. No, ti sbagli. Guarda che ci sono pure le femmine. E su Gesù meglio, così sarò l'unica. Oh, guarda che mi fai perdere il tramonto. Guarda il tramonto. Guarda che colori. Il mio romanzo comincerà con un tramonto bellissimo. Tu da grande farai la femmina, capì? Ricordatelo bene. Hai il compito di portare avanti il nostro sangue. Al nome ci penso io, Floriano Garofalo. Aia, Fifi, ma chi ti piglia, mo? Mi fai male. Non ti devi fare venire idee strane, Lea. Vuoi fare la rivoluzione, tu? Guarda che qua non cambia mai niente. Ricordatelo. Qua si sta tutti uniti. Io rinuncio dal benzinaio, tu rinunci alla scrittora. Scrittrice. Ah, scrittrice, ya. Cammina, andiamo. Gliel'hai detto? A mamma sì. E che dice? Non è d'accordo. E tuo fratello? E anche se glielo dico non ascolta. E noi lo convinciamo, Le. Scappiamo? Sì. Ma senza che ci andiamo tanto lontano, stiamo qua a Milano. Eh no, e poi se ci trovano? E se ci trovano sono stati bravi, Le. Carle, ma almeno mi ami? Mi ami? Mi ami? Denise, questo nome vuole darti la tua mamma. Ti sento scalciare mentre stiro, lo sai? Non posso lasciare tuo padre senza camicie pulite. Sbrigati a nascere che non vedo l'ora di fare la mamma, mamma. Finalmente non sarò più sola. Sento il tuo cuore. No, no, tranquilla. Papà non grida stasera. Stasera è contento. Uè, Carlo. Ciao, Floria. Lea, come sta? Lea sta buona, tranquillo. Mm. Ma quindi è una femmina? È femmina, sì. E mi dispiace. Floria, perché mi volevi vedere? Ma perché mi serve un lavoretto. E ti manna smia. Me lo devi fare tu. E dici. Ma com'è che l'ha chiamata sta femmina? Denisi. Bello. Floria, che è sto lavoretto? Che devo fare? Me ne caga, tu spiego. Dormi, Denise. Sei bellissima. Hai gli occhi grandi di mamma, la bocca bella di mamma, le manine paffute di mamma. Dormi, figlia mia. Oggi mamma si è riposata. La lavatrice si è rotta e mamma si è riposata per stare più tempo con te. No, mamma, no. Papà non grida stasera. Stasera è contento. Io non lo so fare il padre, eh? Pure se mi ci impegno non lo so fare. Prendo le decisioni, quello sì, ma poi mi pento, sono insicuro. Un padre invece non è insicuro, un padre è forte. Non ha pensieri strani davanti al sole, no? Un padre sa sempre quello che deve fare. Per questo non lo faccio il padre, papà. Lei avresti dovuto crescertela tu, non io, che ne so io. Io sento che le voglio dire di sì, anche quando mi ha insegnato che devo decidere per il no. Guarda qua, ho una pistola al posto di una fidanzata e una sorella troppo audace. Che avresti fatto tu, glieli dai due schiaffi? Oppure no? Ecco, io no, non ci riesco proprio, questa è la differenza, lo vedi? L'ha denunciato, capisci? L'ha denunciato e ha denunciato pure a Mia. E a Carlo. L'ha denunciato. È andata dagli sbirri per dire che il compagno ha ammazzato con Beriate, il vicino di casa. E io che devo fare adesso? Eh? Come delle serpi che mi ronzano nelle orecchie e mi chiedono in coro di fargliela pagare a mia sorella, capisci? A tua figlia. Io non l'ammazzo a mia sorella. Io non la tocco. Non ce la faccio. Come la condanno? E di che cosa poi? La bambina è il suo pensiero. La bambina fa la madre tua figlia. E io sto ancora qui a parlare da solo. Non lo so fare, padre. Io non la tocco a mia sorella, no! Smith appare dall'oblò centrale e spara alcuni colpi di pistola. Dall'oblò del pannello destro si affaccia Lea. Il pubblico spia attraverso gli oblò la scena che avviene nell'appartamento di Carlo e Lea. Che cazzo erano quegli spari? Ma statti zitta, statti zitta! Denis sta piangendo, dov'eri? Che cazzo hai fatto? Statti zitta, t'ho detto, non dimmi scà, non sono cazzi tuoi. Tu spari la gente nel mio pianerottolo, hai capito? Tu non spari la gente, tu devi fare il padre adesso, io non ce la faccio più! Falla finita, ti ho detto, fa sta zitta, picciridda! E lavami sta camisa. La lavatrice è rotta. Lavatela da solo. Ce ne andiamo. E fai conto una partita di calcetto, no? 5 contro 5, senza arbitro. Tocchi veloci e rapidi, gioco di squadra. L'attaccante imbraccia il Kalashnikov e spara certe botte che spacca la rete. I difensori placidi stanno nelle retrovie, armati di semiautomatica leggera, pronti a sfondare le caviglie. Io? E io sto a centrocampo, smisto le vite. Se l'attaccante liscio un pallone con le mie canne mozze che spara il gol vincente. 5 contro 5. Vinciamo noi. Gli sconfitti restano sul campo e pagano il campo. Dopo che altri 5 muoiono davanti alla tua pistola, resti lì un attimo prima della fuga. Le facce spaesate gioiscono della vittoria mentre le facce degli avversari, un attimo prima ancora vive, continuano a guardarti con la paura cristallizzata negli occhi. E il calcetto degli spari è così, si gioca in diversi campi, le squadre sono tante. Ah, la nostra è più forte, almeno da queste parti. L'attaccante è mio fratello, Carlo Cosco. I difensori li cambiamo spesso. Ma oggi la partitella si è chiusa in vantaggio per noi. Mio fratello ha fatto gol nel suo pinerottolo in mezzo ai fiori dei balconi che iettano acqua. Palla al centro. È un caduto sul campo. Per ora. È peccato che la tifoseria se l'è presa. Mi sfida. Ma io non mi preoccupo di questa sfida. Sta a femmina che ci sfida. Se cominciamo noi manco mi impegno. E i femmini non ci possono giocare a calcetto. No. Ah, l'uomo partita alla fine. Sono sempre io. Guardati. Come potevo immaginare che dentro di te si nasconde un mostro? Eppure un cuore c'è, per forza. Deve pulsare qualcosa di buono. Non si può essere completamente marci. C'è qualcosa in te. Dovrei aprirti, scavare dall'interno. Magari se cerco bene, forse lo trovo, un posto in cui tieni sotto chiave i tuoi sentimenti. La valigia è pronta. Ciao, Carlo. Lea resta in proscenio, in penombra. Due uomini appaiono dai due oblò, due detenuti. Mi fa freddo. Sta cella mi fa venire i brividi. Posso andare? Io non so niente, io non ho fatto niente. Come andà? Ma perché mi tenete qua dentro, ah? Quella è la mia compagna che si fa troppe canne, marescià. Chissà che flash che si è fatta. Fatemi uscire! Manco la giacca mi avete preso, come andà? Uè, guarda chi c'è! Latin lover! Senti un po', ma da quant'è che stai qua? È una settimana. Ma davvero ti ha denunciato una figlia? E tu così, non ti conosco. Che uomo d'onore, fregati una figlia! Oh, ti ha pure portato le ciabatte prima che venivano gli sbirri. E voi due ve fazzo fora, capito? No, dicono che nemmeno viene a trovarti, E dicono pure che non ti fa vedere a tua figlia. E dicono minchiate. Ma lo sai come son fatti. Credono a quello che sento. A voi due vi sparo. Appena esco da qua dentro io vi sparo. Sì, se la tua signora te lo lascia fare. Senti qua, ma la pistola della Lucida, lei la sei? Siete morti, compa, tutte e due, vi sparo, a tutte e due. Ti sei fatto puttina, femmina. Floriano viene ucciso. La sua morte viene rappresentata da un'automobile giocattolo che viene ribaltata da Carlo in scena. È brava Carlo, m'avete fatto fuori. Floria, scusami. No, tra uomini queste cose non si dicono. Potevi essere tu quello morto, no? No, io proprio no, guarda. Ora però, dato che sono morto e la partita si è chiusa, te lo posso dire. Posso? Dice. Mia sorella ha fatto bene a denunciarti. Ma che cazzo conti, Floria? Sei uno stronzo, Carlo. Tu hai scelto Alea solo per conquistare un braccio di quartiere dove far luccicare il tuo nome di merda. Peccato solo che glielo hai lasciato attaccato addosso a mia nipote. Dimmi la verità, Carle. Tu non ci hai mai voluto bene, Ita. Dove si è caputo? State sincapunito? Dimmi una cosa. Che te ne fai su potere in merda? Da quant'è che non la vedi a tua figlia? Ma sai che è cresciuta? Bella quanto a sua madre, anzi forse pure di più. Che ci dice agli amici quella creatura? Mio padre non c'è mai, lavora fuori, fa l'ondranghetista a Milano. Se torna mi uccide forse. Di sicuro uccide mia madre, povera donna. Carle, tu hai fatto diventare merda l'oro. E tu? Tu non sei come me, Floria? No. Tu lo dovevi fare. Ma che uomo di merda sei, eh? Tu avresti dovuto raddrizzare a tua sorella. Tu di tuo padre non hai preso niente, ignorante. Ma perché non l'hai ammazzata tu, eh? A mia sorella. Perché ho pensato una cosa semplice. Che senso ha? Questo pensiero mi ronzava nella testa e ha cancellato di colpo tutte le fottute regole di questa organizzazione. Ha ragione lei, Carlè. Ha ragione lei. Io e te, senza la pistola, siamo pecore. Abbiamo queste grandi reazioni di palle sode, sparare. Oh, bello nasconderci dietro al proiettile, no? Dimmi una cosa, quanti ne hai ammazzati solo perché ti prudeva il culo? Floria cala, eh? Se sono morto è grazie a quel pensiero. Che senso ha? Per questo siamo tutti ciuoti in da sa cazzo in drangheta, Carlo, siamo malati. Perché se pensiamo, se ci poniamo il problema dell'altro, allora facciamo una brutta fine. Sai, ora che sono morto finalmente posso sentire il battito del mio cuore. Prima era solo quello di lei a battere. Ah, e ti ha fatto incazzare, eh? Perché quello è il cuore forte di chi pensa, di chi sceglie, di chi sa amare. Tu, il tuo cuore te lo sei fatto mangiare dalla voglia di diventare sto cazzo. Floria, Floria! Floria, state accorto, eh? Bisogna sempre tenere le mani sul volante quando si guida. Vedi, Floria, ci sono cose per le quali devi ragionare e altre per cui non ne vale proprio la pena. Femmine sopra sta terra ce ne so quante cazze ne vu. Eppure preti per famissi di matrimonio. Io non è che non gli voglio bene a tua sorella. Anzi. Ma tu lo sai com'è fatta, no? Lei è testarda, grida. E quando grida, diventa difficile da gestire, Floria. Tu ci devi guardare nello specchietto retrovisore, no? È una cosa importante. Tua sorella mi ha chiesto di smettere. E che cazzo si pensava? Che io ci mandavo una raccomandata con ricevuti i ritorni e chi se mi cacciava in su giochino, Floria? Non funziona così e tu sei buono. Floria, tu le mani le devi tenere sullo sterzo. E ha di guardare rieto. Perché se queste cose escono fuori dalle mura di casa, sono figure in merda pesanti. Floria, sono gli altri cattivi, non io. Io guido. Ma io ho detto di no. E si è morto. Io invece non voglio morire. Ah, tu non la puoi fare ammazzare a mia sorella. Ah, Floria, ma loro non ci ha capito proprio un cazzo, Floria. Non ho deciso io. Sono una città assurda. Ma città una mia. Pezzo di merda. Sarà. Ma io sono ancora vivo. Tu invece... Tu no, Floria. Ciao. Me lo dovevo immaginare che prima di evadere bisogna stare molto tempo nelle fogne. Così sto, nelle fogne. Mi portano a destra e a sinistra. Neanche ci piscio a volte in questi maledetti hotel. Ma che ci faccio io rinchiusa nella mia stessa vita? Mia figlia cresce. Bella figlia mia. Cresce, le leggo negli occhi sempre più amarezza. Cresce con sorrisi spezzati dalla fretta, con l'incubo di incontrare qualcuno di conosciuto per strada. Cresce male, povera figlia. La sento di notte fare sogni più belli della vita di merda che le sto dando. Finirà mai questo viaggio? I poliziotti agli angoli delle strade neanche mi guardano, come recitano bene. Però mi proteggono. E io proteggo mia figlia. Dove siamo qui? Non so neanche il nome di questa città. Esco con la vita ben ficcata nei vestiti della vita finta. Vivo per finta, per aver detto la verità. Glielo spiego a mia figlia? Glielo posso dire perché ho denunciato suo padre? Io non ho più niente da dire, io ho già detto tutto. Sono gli altri, quelli a cui l'ho detto, che dovrebbero fare qualcosa. Ah, mi hanno persino detto che sono una collaboratrice di giustizia. A quel fesso del magistrato gliel'ho spiegato bene. Io non sono come loro. Sono nata col nome sporco di fango, ma ho passato tanto tempo sotto la pioggia per lavarlo. Ma non si smacchia, non si smacchia. E che cosa ho fatto? Ho preso un altro nome sporco di fango e l'ho scagliato su mia figlia. Eccolo. È questo il mio errore. L'unico. Sei sicuro? T'ho detto sì. E va bene. Ah, mi raccomando, eh. Ci voglio parlare prima che... Tranquillo, Carlè. La faccio solo rapire. Di mattina. Così mia figlia è a scuola. Ma tu sei sicuro che non l'ha già fatta riparare sta cazzo di lavatrice? No, è rotta la lavatrice, tranquillo. Ci hai parlato? M'ha chiamato mo, m'ha chiamato apposta per la lavatrice. È perfetto, allora. Ci mandiamo tecnico nostro. Mi raccomando, Smith, eh. Non gli deve fare male. Carlè, tranquillo. Ma poi lo ammazziamo, no? E certo. Sta bastarda. Lea, non gli aprire al tecnico. Fifi, stai tranquillo, il tecnico è già venuto. Ma l'ho mandato via, era troppo caro. Quanto voleva? Una vita. La mia. Bene. Economico. Cazzo! Papanculo! Che è successo? Tua figlia! Mia figlia che cosa? C'era tua figlia, quelle bastarde hanno reagito, il tecnico della lavatrice ha fatto il viaggio a vuoto. Benizia era alla casa. Sì, l'hanno corcati i scaffi, non l'ha rapita. Mi ha mandato un tecnico fasullo per rapirmi. Per ucciderti, lei. Mi vuole rapire, e poi? Ti vuole uccidere, lei. Fifi, ma perché non mi rispondi? Lei, ti sto parlando, mi senti sul mio ca... Carlo ti vuole uccidere. Fifi... Lei, sul mio ca. Che facciamo? Fifi, dove sei? Niente, un sapite fa niente. Eccolo, lo vedi? Sta parlando di te. Ma veramente la colpa è di tua figlia. Denise? No, vieni da mamma, no, che papà non grida stasera. Stasera è contento. Tu a mia figlia la devi lasciare stare. Lei scappa, vai via. Quella va dai carabinieri, la bastarda. La dobbiamo ammazzare, Carlè. È una serata tranquilla, papà è calmo. Legge il giornale. No, adesso non ci devo prima parlare. Prendi tua figlia e scappa. Agli sbirri ci dice tutto. Ma tu l'ammazzeresti la femmina tua, di? Mamma e papà ti vogliono bene. Tu l'ammazzeresti la tua compagna. Non piangere, mamma. Io sì, e io... Io non posso, Smith. Lea, pure io ti dovevo ammazzare. Ma ho detto di no. Però Usaga tiene ragione, Smith. La dobbiamo ammazzare, sì. Perché mi ha fatto fare la figura del minchione. È come avere la corazza. Ti senti impenetrabile. Mi chiamano Smith. Pistola nella mano destra e lupara nella sinistra. I soldi. Uno ci nasce, come una famiglia reale. Il re genera il principe e il principe è destinato a diventare re. Ammazzare. Mi piace. Scegliere il punto preciso dove sparare. Io volevo fare il benzinaio. Mi tremano le palle quando mi chiamano boss. Mi piace, come cazzo taglia di? Il morto, dopo che è morto, diventa un pensiero in me. Mi ci vedi a me a fare il benzinaio. Poi torno a casa, mi faccio una birra alla salute del morto e di solito mi scappa pure da cacare. Ah, se minchiate che c'hanno paura sono false. A noi ci lasciano liberi di fare il cazzo che vogliamo. A uno gli ho squartato la gola mentre stava mangiando. Quanti sono i principi che non vogliono diventare re? Pochi, no? E se mi sparano? Muoio, sì. Ma dopo so cazzi di loro. Tanto la trovo. Mai uscito senza pistola. Mia sorella è forte. La bastarda. Si fa proteggere dagli sbirri. Mia sorella è forte. Le cose di famiglia si devono risolvere in famiglia. Che cazzo di bisogno c'è di allarmare i giudici? Regole di merda, chiaro. E poi lei è una di noi. Ma tanto la troviamo. La troviamo, sta bastarda. Muti. Bisogna stare sempre muti. La paura è una salvezza. Se hai paura, reagisci. E se reagisci, ti svegli. Mi sono svegliata una mattina che nel letto c'era la sua puzza. Un uomo che puzza di morte non può essere una bella compagnia. E non basta aprire la finestra, perché non esce quella puzza. È bastato imbrattare l'andrangheta per metterle paura. Eh sì, di questo si tratta. Pensano di potersi mangiare il mondo. Eppure se spagnano una femmina. Hanno avuto paura e ne hanno ancora. Bambini vigliacchi. È fatta così l'andrangheta. Gradassi, superuomini armati, minacciano, ammazzano. Ma per che cosa? Per la paura che il loro gioco si interrompa. Il loro giocare ai banditi. La femmina apre la bocca e azzoppa Golia. Ho vinto io, che vi piaccia o no. Femmina batte mascoli. Mi fate schifo. È passato del tempo. Dicono che le hanno tolto la protezione. E vai, finalmente! Dicono che a Firenze. Che facciamo? La vuoi qua stasera? No. Come no? Ancora no. Ha parlato troppo, ha cantato. Ci devo parlare prima, Smith. Carlè, ci vuole un attimo. La prendiamo e te la porto qui. Ho detto no! Mia figlia come sta? Sta. È cresciuta? E credo di sì. È bella, Smith. Carlè, ti porto pure a lei, eh? Tu a mia figlia non la devi nemmeno nominare, Smith, capito? È cresciuta, sì. Ed è bellissima. La voglio vedere. No. Fammi vedere a mia figlia. Di tuo ho solo il cognome. Ti prego, lei fa male. L'hai persa, Carlè. Ringrazia i tuoi amici, ringrazia quello che sei, ringrazia i tuoi sbagli, ringrazia lo schifo che sei. E piangia, piangi un po', sputa veleno come hai fatto fare a me. Sono più gli schiaffi che le carezze quelle che mi hai dato, ma la mia faccia è dura, Carlè, dura. Mi basta mia figlia. Guarda che è nostra figlia. Mia figlia, lei non ti appartiene. E fammelo dire da lei. Puzzi, Carlè, puzzi di schifo. Cammini e ti porti appresso la puzza della tua inutilità. Tanto io ti trovo, e bastarda. Bastarda, bastarda, sì, bastarda. Senza cognome, senza nome, senza famiglia, bastarda. Sono fiera di esserlo, perché non ti appartengo, perché non appartengo a nessuno, perché appartengo solo a me. Sono libera. Una bastarda libera. Io t'ammazzo. Carlo esce. Lea, trascinando con sé una grossa valigia, si sposta sulla scena. Appena raggiunge un posto, appare una faccia dagli oblò. Si sente spiata, osservata. La musica trascina la vita di Lea Garofalo in posti e città diverse. Esausta, si accascia al centro della scena. Piange. Sul fondo appare Carlo, tronfio. Estrae un cellulare dalla tasca. È novembre del 2009. Pronto. Posso parlare? Uè, Lea, sei tu. Sono a Firenze. Lo so. Non ho soldi. E quanto ti serve? No, non è per me. È per Denise. Vuole una giacca, io non gliela posso comprare. E dimmi quanto ti serve. 200 euro. E perché non venite qua, a Milano? No, Carlo. Voglio vedere a Denise. Le pago il biglietto, falla venire. No, mai. Oi, lei, ma mi hai chiamato tu? E dai, sei ancora così incazzata. Se non vuoi vedermi, mandami a mia figlia. Voglio solo vederla, stare un po' con lei, parlare. E passaci sopra, no? Sei scomparsa. Mi ha impedito di vedere a mia figlia. Ma non credi che la possiamo finire qua? E basta con sta guerra, lei. Le compri qualcosa e basta. Quando viene? Domani. L'aspetto alla stazione. Scrivimi l'orario. Non la potevo mandare da sola a mia figlia. Una figlia che ha diritto a scegliere il vestito che le piace. I soldi li ha lui, il mostro. Non la potevo mandare da sola. E a Milano ci sono andata pure io. Per proteggere Denise. Il pacco arriva domani. Che pacco? La bastarda. Arriva. Ca. È assurdo, no? Come vuoi fare? Niente, ci devo prima parlare. E la dobbiamo rapire. No, non è necessario. Trova un garage e piglia un bidone. Minchia, la vuoi cancellare? Deve essere cancellata, sui regole, no? Minchia alla lettera, Carletto. Però prima ci devo parlare, Smith. Che cazzo ci devi dire? Niente, Smith, ma allora tu non l'hai capito quanto è importante per me. Per noi. Ci devo parlare perché mi devi dire che cazzo ci ha contato agli sbirri. E pensi che te lo dirà? E chi lo sa? Dopo tu conto, Smith. Carletto. Bidoni ne prendo due. Sì, così il secondo è per te, Smith. O per te. La luce cambia e Lea viene raggiunta da Floriano. Il fratello è morto da tempo. Una luce arancio li investe, come in un sogno. Ho raccontato tutto al magistrato. Lo so, Lea. È per questo che siamo morti, Fifì. Tu, sì. E tu? Oh, io sono una cattiva persona, Le. Meritavo di morire. Tu no. Nessuno merita mai di morire. Mi hanno chiesto di ucciderti. Ma non l'hai fatto. Ma ci ho pensato. Ma non l'hai fatto. Papà, lui l'avrebbe fatto? Forse sì. Tu come stai? Bene, ora. Mi dispiace, Le. Starà bene, Denise? Ah, Ida sta commettendo il tuo stesso errore, eh? Parla pure a lei con gli sbirri. Io non ho commesso errori. Nessun errore. La verità non è un errore. L'errore l'hanno commesso altre persone. Io sono dovuta morire per rendere vere le mie parole. In vita le mie parole erano inutili. Che cazzo se le scrivevano a fare su quei verbali? Per me è questo quello che ha sbagliato, no? E falla finita, Fifi. La smetti di essere come eri prima. Godiamoci il tramonto. Lea, il tuo romanzo comincerà con un tramonto bellissimo. Questo. Tu sogni, Lea. E lasciami sognare ancora un po'. Svegliati, Lea. Dov'è Denise? E a casa, tranquilla, ma perché t'agiti? Mi devi portare subito all'hotel, dove siamo qui? Calmati, ti sto dicendo, Lea. No, Carlo, e non permetterti di mettermi di nuovo le mani addosso che ti denuncio. Lea, madonna, calmati, non ti sto mettendo le mani addosso, tranquilla, voglio solo parlare. Non ho niente da dirti. Perché l'hai fatto, Lea? Per mia figlia. Guarda che è anche figlia mia. Tu non hai fatto niente per lei. Tu non hai fatto niente per me. Io l'ho cresciuta coi soldi miei, eppure a te. Io l'ho cresciuta. Io le ho asciugato le lacrime. Io ho protetto mia figlia. E statti zitta, statti. E ci ha detto agli sbirri, Lea? Tutto. Tutto chi? Tutto, per favore, mi porti all'hotel. No. Va bene. Allora io chiamo i carabinieri. Oile, ma te la vuoi fare una canna? Prima. Prima di che? Che dovete fare? Mi dovete ammazzare? E forza, dai. Non ne perdete altro tempo. Guardate com'è forte Lea Garofalo. Ve lo leggo negli occhi che avete paura. Lo leggo nel vostro silenzio. Io muoio, sì. Ma la verità sta già affiorando. Affiorare. La verità può solo affiorare dal basso, dal marcio che la nasconde sempre, no? Non è giusto, la verità dovrebbe fiorire. Ah, allora sì che avrebbe il giusto profumo. Tutti lì a fissarla, a contemplarla, sarebbe una verità pulita. Io, nella mia breve esistenza, mi sono permessa di piantare un seme tra la merda. Ne è nato un piccolo arbusto e presto sarà una pianta. E tocca a voi non farla morire. Mai. Credo nella volontà delle persone. Se qualche avvocato volesse perseguire un'idea di giustizia, accontentandosi della retribuzione del patrocinio gratuito e avendo in cambio tante soddisfazioni e un'immensa gratitudine da parte di una giovane madre che crede ancora in qualcosa di vagamente reale, oggigiorno in questo paese, si faccia avanti. Ho bisogno d'aiuto. Qualcuno ci aiuti. Please. Please. Please. Entra in scena la piccola Denise, indossando la giacca bianca che lei avrebbe voluto regalarle. Dall'obbrò centrale si accende una luce, la speranza di Lea. Denise sorride. Poco dopo, dall'obbrò vengono fuori infinite bolle di sapone colorate che riempiono lo spazio. Il profumo della verità si spande per tutto il teatro. È stato mio padre ad ammazzare mia mamma. Lei pensava di farmi felice con quella giacca. E quando mio padre mi riportò a casa, chiesi: dov'è mamma? L'abbiamo lasciata qui dietro, mi ha detto. L'abbiamo. L'hanno. Grazie, mamma. Lo spettacolo La Bastarda, una vita coraggiosa, di Rosario Mastrota, con Dalila Cozzolino, Andrea Cappadona, Antonio Monsellato, Rosario Mastrota, consulenza Paolo De Chiara, testo e regia Rosario Mastrota, in collaborazione con Arci da Sud, introduzione Federico Raponi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con il regista Alessandro Negrini, ideatore con lo storico Angelo Dorsi dell'evento Gazart, artisti e intellettuali per Gaza, a Roma, Teatro Villa Lazzaroni, lunedì 18 marzo 2024, ben trovato. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Cos'è questa iniziativa? Questo evento nasce come atto conseguenziale di un appello, no? In realtà avevo scritto un post in cui invitavo il mondo della cultura a uscire da questo silenzio colpevole rispetto a quello che sta accadendo a Gaza ormai da troppi mesi. E molto generosamente il professor Dorsi, con contatto e insieme a lui abbiamo scritto un appello al quale hanno aderito tantissimi artisti, intellettuali, ma non solo, cittadini che reputano fondamentale e importante che anche il mondo della cultura esca da questa sorta di tabù, perché non se ne parla per mille ragioni, ma soprattutto nel nostro mondo. Della cultura, dell'arte, c'è un po' un timore di essere stigmatizzati, di perdere strette di mano, beni, lavori. E invece il riscontro che abbiamo avuto è stato molto, molto incoraggiante. Ci hanno contattato tantissime persone, artisti, scrittori, musicisti. E nell'appello dicevamo che il nostro intento era di far sì che questo appello proseguisse in una sorta di azione. E questa cosa è l'evento che accadrà lunedì al Teatro Villa Lazzaroni, che anche lui molto generosamente ha deciso di collaborare con noi a questa iniziativa, e ci saranno insomma tantissimi artisti, tanti nomi e speriamo tanto pubblico. Come si svolgerà? L'evento inizia alle 18.30 fino alle 21.30 e sul palco ci saranno alcuni degli artisti che hanno deciso di partecipare. Lo faranno leggendo dei testi o interpretando un pezzo, suonando. Ci sarà Laura Morante, Davide Rubino, Bauro, Ascanio Listini, musicisti, ci sarà Lucio Matricardi che arriva dalle Marche, Daniela Torgi. Sono tantissimi artisti intellettuali che hanno deciso di partecipare e anche con il sostegno dell'Atlante delle guerre e dei conflitti, che ci ha sostenuto e che sarà lì in presenza con il suo fondatore, che è il giornalista scrittore Raffaele Crocco. Ma sarà proprio un evento di arte che prende posizione, che parla, che recita, canta e interpreta l'arte con lo scopo di far sì che arrivi una voce anche dal nostro mondo, che è il mondo della cultura, insomma. Com'era lo spirito di quell'appello che hai lanciato sui social? Tutto l'appello si potrebbe riassumere nel a che cosa serve l'arte, se l'arte tace di fronte all'obbrobrio, di fronte alle ingiustizie, di fronte a qualcosa di così gigantesco come quello che sta accadendo ora a Gaza. E ti ripeto, nonostante siamo partiti con un po' di pessimismo, invece la risposta è stata molto incoraggiante. Sono arrivati circa 1500 adesioni da parte di tutti, letterati, anche artisti che magari lì potevano aver timore, a loro volta si sono sentiti incoraggiati ad esporsi. Ecco, il senso era quello, il domandarci che senso ha parlare di bellezza facendo finta che l'orrido non stia accadendo. Per chi è quella bellezza se tacciamo e rimaniamo muti su tutto il resto? Cosa vedi nell'immediato futuro rispetto alla situazione a Gaza? Beh, la prospettiva non è rosea, perché come tu ben sai la situazione non è determinata dalle parti in campo, ma di chi sostiene l'uno o l'altro. E chi sostiene l'altro sono pochissimi, sparuti nel mondo, tanti cittadini che sono in piazza. Il potere, ai noi, pare non avere nessuna intenzione al momento di fermare questa carneficina, ma è importante far sì che la nostra voce rimanga, anche perché tra 20 anni, tra i 50 anni, tra i 100 anni, risulterà che non tutti sono rimasti muti e complici di fronte all'entità di questo massacro. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Adesso abbiamo la pagina Facebook, che è Artisti e Intellettuali per Gaza, e nei prossimi giorni ci sarà anche il sito web dallo stesso nome, Artisti e Intellettuali per Gaza. Per chi invece vuole contattarci per partecipare e far parte anche di venire a vedere lo spettacolo, può contattare direttamente o il Teatro Villa Lazzaroni o noi, Artisti e Intellettuali per Gaza, @gmail.com. L'evento Gazart, Artisti e Intellettuali per Gaza, a Roma, Teatro Villa Lazzaroni, lunedì 18 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Negrini, che ne è ideatore insieme allo storico Angelo Dorsi. Alla prossima! Grazie a voi, alla prossima! Con Claudio Boccaccini, regista dello spettacolo 7 minuti di Stefano Massini, in scena a Roma, Teatro Vittoria, dal 12 al 24 marzo 2024. Ben trovato. Buongiorno a tutti quanti. Cos'è questo spettacolo? È uno spettacolo scritto da Stefano Massini, che è uno dei massimi autori italiani del momento, no? È uno che ha vinto addirittura il Tony Award, che è una specie di Oscar mondiale della drammaturgia, quindi ha un autore molto accreditato. La storia di una riunione sindacale drammatica, perché l'azienda è in crisi e non si capisce bene quali siano le intenzioni dei nuovi proprietari di questa azienda tessile. Viene fatta una proposta a queste 11 donne, che sono 11 delegate di fabbrica che rappresentano 300 operaie, gli viene fatta una proposta dall'apparenza molto benevola da parte dell'azienda, che invece nasconde delle insidie, e quindi si scatena un dibattito ferocissimo tra le 11 operaie, che avrà poi degli esiti molto molto molto sorprendenti, diciamo inattesi. Quindi è uno spettacolo che è una specie di thriller sul tema del lavoro e sul tema del lavoro femminile. Sono 11 attrici in scena e è uno spettacolo che toglie il fiato, insomma, che ti lascia sempre dei margini di stupore e di sorpresa. Cosa hai apprezzato del testo? Intanto che una volta tanto fossero 11 donne a stare in scena, cosa che in genere non è mai così, perché il teatro è sempre agito dagli uomini, forse proprio perché è scritto dagli uomini, e sono rari i testi con tante donne. Questa è la prima cosa che mi ha colpito, naturalmente. E poi il tema, che è un tema molto attuale, molto contemporaneo, sul lavoro femminile, sul rapporto tra operai e fabbrica, e sui temi che mano a mano vengono portati a galla da questo testo. Quindi è un testo molto complesso, che però non rinuncia a una sua spettacolarità, capito? Quindi ci sono un sacco di elementi che fanno di questo testo un testo di teatro di livello, insomma. Rispetto alle precedenti rappresentazioni, come hai pensato la messa in scena? Questo testo è stato fatto una volta sola, una quindicina d'anni fa. Io vengo da uno spettacolo su Pirandello, che è I Giganti della Montagna, poi ho fatto Labs Kamikaze sulla questione arabo-israeliana. Sono molto legato ai temi dell'attualità, insomma, penso che il teatro se ne debba occupare. E qui ho posto l'accento molto sulle relazioni tra personaggi e personaggi, essendo 11 donne che dialogano, a volte litigano sulla scena, quindi ho molto lavorato su questo, cioè sulle relazioni tra personaggi. L'ambientazione è una sala riunioni sindacali di un'azienda qualunque tessile, quindi il lavoro principale, direi più ostico, più difficile, è stato quello proprio di dare molta molta verità a quello che si stava facendo. Com'è stato il lavoro con le attrici? Sono state scelte più o meno tutte da provini, tranne alcune, ad esempio la protagonista, che è la signora Viviana Toniolo, che è un'attrice straordinaria, con una carriera straordinaria alle spalle. Poi c'è Silvia Broggi, c'è Liliana Randi, c'è Chiara Bonomi, Chiara Davide, vabbè, insomma, non le cito tutte. E alla fine è tuttora, perché dobbiamo ancora debuttare, un'esperienza bella. Mi sono trovato bene con le donne, mi sono trovato molto bene. Andrete anche in giro con lo spettacolo? Per quest'anno no, perché insomma siamo a marzo, quindi lo spettacolo quest'anno si fa 2 settimane qui al Teatro Vittoria, e per quest'anno no, ma la prossima stagione sono previste delle date in giro per i grandi teatri del Nord Italia. Lo spettacolo 7 minuti di Stefano Massini, in scena a Roma al Teatro Vittoria dal 12 al 24 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Claudio Boccaccini. A presto! A presto, grazie a voi e vi aspettiamo ovviamente. Con Gabriele Di Luca della compagnia Carrozzeria Orfeo per presentare lo spettacolo Salveremo il mondo prima dell'alba. A Roma, Teatro Vascello, dal 5 al 17 marzo 2024. Ben trovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Cosa raccontate questa volta? Questa volta è per noi un super spettacolo. Siamo molto felici perché resta nel solco la nostra poetica, comunque un spettacolo molto divertente, ironico, e da parte anche profondi in alcuni momenti, ma per la prima volta un po' ci distacchiamo da quel mondo degli ultimi, dei serventi al quale eravamo tanto affezionati, e andiamo a indagare il mondo dei super ricchi, ma di quelli veramente ricchi, di quei mondi delle lobby, del grande capitalismo, della grande finanza, e li portiamo tutti in scena in una clinica di disintossicazione ubicata in un posto un po' speciale. Come nasce tutto? Nasce dalla volontà, al 12° spettacolo, di continuare a rinnovarci noi stessi, no? Un po' come dicono, qual è il senso dell'amore? Trovare il nuovo nello stesso. E così anche per poter andare avanti il teatro, il nostro teatro, all'interno di quella che noi definiamo la nostra poetica, il nostro stile, quello che ci piace raccontare, abbiamo cercato di farlo rinnovandoci. È stato un contributo prezioso in questa produzione, che è stato anche quello di Andrea Colamedici di Clon, il divulgatore filosofo, con il quale in fase preliminare di scrittura, perché poi ovviamente come al solito mi sono recluso a scrivere il testo in casa per mesi, poi in fase preliminare di ricerca abbiamo avviato insieme dei ragionamenti filosofici, psicologici, sociologici, per andare proprio a individuare il target, il bersaglio di quello che volevamo raccontare. A questo proposito, su cosa vi siete focalizzati? Ci siamo focalizzati sul tema delle dipendenze a livello psicopatologico, le dipendenze più tradizionali, quelle cui siamo abituati nel nostro immaginario collettivo, quindi alcol, droga, poi negli ultimi 30 anni anche ludopatia, con le slot machine e gioco d'azzardo, sono anche trasformati, perché oltre a queste dipendenze, chiamiamole più tradizionali, tutta una serie di dipendenze moderne più legate alla nostra emotività, quindi dipendenze affettive, dipendenze sessuali, ma anche dipendenze da pastiglie, psicofarmaci, che però derivano appunto da dei traumi più o meno ancorati nel nostro passato. Ecco, sono tutte dipendenze importanti rispetto alle quali soffrono molte, molte persone, anche molte persone ricche, come abbiamo scoperto, e quindi ci interessava focalizzarci lì. C'è una frase nello spettacolo che lo racconta bene, dice: ogni forma di dipendenza è una forma di riparazione. Riparazione a che cosa? Riparazione a una ferita che ci ha lacerato nel profondo. Il titolo come è venuto? Il titolo è venuto durante la fase di scrittura, ma anche precedentemente, nel senso che a me il titolo aiuta molto. Quando inizio a pensare a un argomento e trovo il titolo, tutto il testo va in quella direzione. Salveremo il mondo prima dell'alba pone, diciamo, implicitamente una grande domanda, per me, ma lo sarà anche per il pubblico. Salveremo il mondo prima dell'alba da chi? Da noi stessi o da se stesso? Perché forse il mondo, per essere salvato, ha un po' meno bisogno di noi, che ci crediamo sempre i padroni della terra. Questo è un po' il senso di tutto lo spettacolo. Come avete pensato la messa in scena? La messa in scena è stato un bel macchinone, ma già a Miracoli Metropolitani c'era una grande scenografia e tutto lo spettacolo è ambientato in un satellite in orbita a centinaia di chilometri dalla Terra, perché anche qui quello che si credeva fosse fantascienza ora è diventato il nostro prossimo futuro. Si stima che nei prossimi 20-30 anni sarà il fenomeno del turismo spaziale, quindi i super ricchi, ovviamente, chi se lo potrà permettere, invece che alle Maldive, andranno in questi satelliti in orbita a farsi qualche giorno a contatto con lo spazio, dove potranno provare la microgravità. Ecco, abbiamo cercato di ricreare un ambiente del genere, ma sottraendo all'immaginario collettivo dell'ipertecnologia e creando una specie di tempio giapponese nello spazio, così per unire spiritualità e religione alla tecnica. Più in generale, in questa fase, a proposito della vostra poetica, dove vi state indirizzando? La strada della nostra poetica è così lunga che l'orizzonte che ci immaginiamo davanti in qualche modo è sempre nuovo ed è sempre il medesimo. Cercare di creare un teatro il più possibile popolare e trasversale che possa sottrarsi, e questo già l'ha fatto il nostro teatro, grazie al cielo, negli anni, dal solo circuito cosiddetto off, e possa andare a, in termini tra virgolette, colonizzare anche teatri più grandi e più istituzionali, in modo a portare un teatro profondamente tradizionale, perché noi amiamo gli attori, il testo, la messa in scena, i costumi, però innervato di nuovi contenuti profondamente urgenti e radicati nel presente. È lì che Carrozzeria vuole andare. Carrozzeria Orfeo vuole andare anche avanti dal punto di vista pedagogico, provare a formare nuove generazioni di giovani e sostenerli, provare a fare un teatro che sia sempre più necessario, perché comunque è un dato di fatto che le persone vanno meno a teatro e il teatro interessa sempre di meno. Sempre tanti attori e attrici in scena, com'è il lavoro con loro? È meraviglioso e faticoso al tempo stesso, perché appunto quello che si pretende è una compagnia indipendente che con le sue sole forze, quelle dei coproduttori che in quella contingenza la stanno aiutando a creare un nuovo investimento, a ritrovarsi in un teatro con molti attori, molti tecnici, un grosso impianto scenografico

Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, andiamo subito diretti in quel che ci offre la settimana teatrale. Dunque, partiamo dal nostro Teatro Tor Bella Monaca, dove ancora questa sera è in scena Gramsci, uno strano unione, cioè questo strano nome, e il Rampolle, unico erede di una ricca famiglia borghese, si innamora inaspettatamente e perdutamente di un busto di Antonio Gramsci. È uno spettacolo con Paolo Cioni, Daniele Marmi, Guglielmo Favilla. Si tratta di, insomma, tre volti noti della serie TV I diritti del Barlume. È un testo farsesco che chiaramente, insomma, mette in scena situazioni paradossali e grottesche, comunque per innamorarsi di un busto di Gramsci e si sta, insomma, cos'altro. Quindi ancora stasera per questo lavoro al Teatro Tor Bella Monaca segue il 14-16 marzo il testo di Luigi Pirandello con l'adattamento a regia di Giovanni Mongiano, che ne è anche interprete, il fu Mattia Pascal. Conosciamo la storia, scritto nel 1904. Fu Mattia Pascal è un romanzo. Mattia Pascal è un personaggio che vive una condizione particolare, insomma, in scena la propria morte e in scena le conseguenze della propria morte, godendosi un po' tutto da una distanza che poi così tanto distante non è. Andiamo a vedere come tradurlo in teatro 14-16 marzo alla Tor Bella Monaca, dove invece durante il weekend andremo a vedere due lavori. Domenica 17 pomeriggio Hansel e Gretel per i più giovani, mentre invece dal 15 al 17 Falstaff e le Allegre Comari di Windsor, la regia di Carlo Viglio Lerici, la produzione del Teatro Belli, da William Shakespeare chiaramente, e si tratta di una commedia dedicata, insomma, a questo personaggio di Falstaff, per il quale viene scritta una commedia di cui è estremo protagonista, e Shakespeare lo fa per, appunto, la regina Elisabetta, dove inserisce, cioè, il meglio del proprio repertorio tra l'amore contrattato, gli equivoci, gli scambi, travestimenti, insomma, una commedia a tutti gli effetti. Quindi fino al 17 marzo al Tor Bella Monaca lo abbiamo sistemato. Poi Teatro Vittoria, dal 12 da oggi fino al 24 marzo, il testo di Stefano Massini e la regia di Claudio Boccaccini, 7 minuti. Dunque, 7 minuti che sono in scena fino al 24 di marzo, appunto, trae spunto da un fatto realmente accaduto in una fabbrica tessile francese, dove alle operaie fu proposto il taglio di 7 minuti di intervallo su un totale di 15 totali. E partendo da questa vicenda, quindi dando voce a questi 11 personaggi femminili, Stefano Massini cerca di raccontare l'aspra condizione femminile all'interno delle fabbriche, ma non solo all'interno delle fabbriche, e vederne anche un po' l'intima necessità, insomma, che emergerà un po' dai personaggi. Dal 12 al 24, 7 minuti al Teatro Vittoria. Andiamo avanti, perché per altro teatro organizzato da Braxa Teatro, è una rassegna un po' sparsa in giro per la città. Questa settimana andremo al Teatro Centrale Preneste per ben due repliche, 13 e 14 di marzo, ovvero sia domani e dopodomani, per questo lavoro, il Greenland di Olimpia, quello di Antonia Cesara Schwarza e Jacob Nielsen dell'Olimpia Theatre. L'ho letto all'inglese e non è la cosa più adatta. È la storia di due giovani aspiranti violinisti la cui fantasia li fa dialogare con banane e bolle di sapore. Quindi siamo all'interno della magia, del divertimento, uno spettacolo con la regia di Bustrick, che, insomma, a tutti gli effetti è un clown, che quindi per queste due repliche, insomma, dalla sua visione per bambini, adulti, anziani, famiglie, insomma tutti coloro a cui piace ridere e sorridere. Fino al domani, dopodomani, 13 e 14 marzo, al Teatro Centrale Preneste. Poi procediamo, andiamo al Teatro Belli, dove dal 12 al 24 marzo per la rassegna abbiamo Dolce Italiana Contemporanea Expo, Teatro Italiano Contemporaneo, I Cuori Battono Nelle Uova, il nuovo testo di Alberto Fumagalli, che cura la regia insieme a Ludovica D'Auria, e si tratta di tre donne, ognuna di loro porta un lungo camice che ne nasconde le forme, tranne quelle delle loro pance che sono gonfie e tonde. Sono tre donne che aspettano un figlio, il loro primo figlio, e le pance delle donne sono piene, delicate, ricordano tanto tre bellissime uova, e questo legame chiaramente tra la condizione di prossima maternità e le paure e tutte le dinamiche nascoste nell'animo umano, nel mezzo ci sarà questo spettacolo. Dunque, I Cuori Battono Nelle Uova, 12-24 marzo, Teatro Belli. Al Teatro della Cometa Off andremo a vedere da oggi fino a domenica 17 un testo di Lorenzo Gioielli che si chiama Vita, Morte e Miracoli, con la regia di Riccardo Scarafoni. La vita e la morte, viste dai palchi e dalla platea, fanno davvero ridere, e quello è quello il miracolo. Si tratta della storia di Marco, un uomo intelligente che in questo momento, cioè, è in una condizione particolare, perché il suo compagno Emanuele è in coma. Sua sorella Ilaria è un passato misterioso e complicato, da cui è uscito sposando Dario, un uomo semplice, privo di pericolosità. Ecco, queste quattro persone hanno però in comune molti segreti, molte stratificazioni che porteranno la commedia a una fine imprevista e imprevedibile. Quindi al Teatro della Cometa Off, 12-17 marzo, per Vita, Morte e Miracoli. Procediamo dunque oltre, perché al Teatro Palladium arriva 16-17 marzo Leonardo Manzan insieme a Rocco Placidi con questo libero adattamento da Cyrano di Bergerac di Edmond Rostand. Cyrano deve morire, è uno spettacolo pieno di diverse espressioni artistiche, tra poesia romantica, rap feroce, tra musical, DJ set, costumi d'epoca, luci stroboscopiche, ecco, raccontano la storia d'amore di Cyrano de Bergerac come non abbiamo mai ascoltato. Questo al Teatro Palladio, 16-17 marzo. Procedo perché torna lo spettacolo nato da un'idea di Ivan Fetta, che lo dirige e interpreta, tratto dal racconto di Giorgio Vanacorda omonimo, Pasolini a Villada, all'Arma Teatro dal 15 al 17 marzo. Torna questo racconto dell'amicizia tra l'autore Giorgio Vanacorda e il poeta friulano Pierpaolo Pasolini, un denso monologo che rivela appunto questa amicizia, ma anche il tormentato percorso di emancipazione che Manacorda ha dovuto affrontare per liberarsi dalla figura del maestro Pasolini. Appunto, Arma Teatro, 15-17 di marzo. Procedo al Teatro Lo Spazio, che apre con due spettacoli questa settimana, e andremo a vedere prima, dal 14 al 17 di marzo, Mauro Toscanelli cura la regia di questo testo BBN di Donatella Busini con gli attori, è dedicato a una donna che vive in manicomio negli anni 70 ed è convinta di essere la figlia di Vivian Leigh. Chiaramente un caso particolare che suscita l'interesse del direttore dell'istituto, che vuole capire qualcosa in più, insomma, su questo strano personaggio, tutto quello che racconta. Dunque, dicevamo, 14-17 marzo al Teatro Lo Spazio, stesso luogo che apre il 17 marzo stesso alla Stand Up Comedy con questo Spazio Comedy Show, la direzione artistica di Chiara Becchimanzi, e ci saranno insomma delle serate durante questi mesi, ne parleremo poi più avanti, dedicate appunto alla Stand Up Comedy con protagonisti vari, insomma, che andremo via via a rivelare. E quindi Teatro Lo Spazio, ecco, questa settimana si avvale anche di questa stand-up comedy. Mentre al Teatro India arriva La Casa Nova di Carlo Goldoni con la regia di Piero Maccarinelli, un testo che mette in scena la compagnia di giovani attori, allievi e neodiplomati dell'Accademia Silvio D'Amico, e va bene. E poi al Teatro del Lido arriva Babilonia Teatri, Valerio Raimondi ed Enrico Castellani, che presentano un loro spettacolo poco noto, Come dire, fare baciare, lettera, testamento, dedicato ai più piccoli, e sarà appunto al Teatro del Lido, dai 5 anni in su, ecco, domenica 17 marzo alle ore 17. È un personale manifesto dei diritti del bambino, riflette sul nostro tempo, sulla nostra società caratterizzata da un ritmo sempre più frenetico, dove spesso i bambini vengono trattati come piccoli adulti. Quindi ecco, sentiamo di nuovo parlare loro in qualche modo, le loro esigenze, cerchiamo di portarle fuori. E all'Altrove Teatro Studio, dal 15 al 17 marzo, il nuovo testo di Giorgio Latini, Cosa potrebbe andare storto, con Ottavia Bianchi, lo stesso Latini, Roberto Fedele, Patrizia Ciabatta. Insomma, è una commedia che racconta di due improbabili ladri che tentano di rapinare una banca, ma qualcosa non va e sono costretti a rimanere all'interno dell'edificio con due ostaggi. Quindi appunto all'Altrove Teatro Studio arriva la commedia alle 15 al 17, una serata un po' particolare, all'Alcazar il 14, per vedere il concerto performance teatro del collettivo romano Dimensione Brama, che appunto unisce la performance del teatro, la musica alla filosofia, un'esperienza abbastanza unica e originale. Andrei a vedere, insomma, il 14 di marzo. Poi ancora continua ad andare in scena Clorofilla per i più piccoli al Teatro Torlonia, che fa parte comunque del Teatro di Roma, la regia di Roberto Gandini. E mentre invece al Teatro Andrea Iovinelli, dal 13 al 24 marzo, Alessio Boni porta in scena Iliade, il gioco degli dei, lo interpreta insieme a Iaia Forte ed altri attori, tra cui la nostra Elena Vanni. Attenzione, grande ritorno, c'è Elena Vanni, Federico, è una cosa straordinaria chiaramente ritrovarla sui palcoscenici romani. Nostra collega dei primissimi tempi del radio teatro insieme, e quindi dal 13 al 24 marzo andremo a vedere la nostra Elena Vanni nell'Iliade all'Ambra Iovinelli, e con appunto la cura di Alessio Boni. Per ciò che riguarda poi l'ultimo appuntamento, ricordiamo alla Fortezza Est 14, 15 e 16 marzo, Clio Cipolletta Buren con Hedda presenta questa riscrittura contemporanea appunto delle Gabler di Eric Ibsen, un monologo che si concentra sul punto di vista della protagonista, che è calata nel nostro tempo per, insomma, cercare di raccontare il presente dei rapporti sociali inquinati e questa esigenza, che è più un capriccio, insomma, del successo, dei rimpianti e del naufragio dell'amore. Questo è l'ultimo appuntamento che ricordiamo, ed è tutto per questa settimana. Ciao a tutti! Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.